A Bologna la gastronomia è una cosa seria. Talmente seria che la misura della tagliatella bolognese è stata solennemente decretata nell'aprile del 1972 dalla delegazione di Bologna dell'Accademia Italiana di Cucina e depositata con atto notarile presso la Camera di Commercio, la cui sede è il Palazzo della Mercanzia. All'interno dell'edificio medievale è conservato addirittura uno scrigno in cui è contenuto un campione aureo della tagliatella. L'iscrizione recita 8 mm, misura della tagliatella, Accademia Italiana della Cucina, 1972. A voler essere precisi, 8 mm è la misura della tagliatella cotta, corrispondente alla 12.270 parte dell'altezza della Torre Asinelli. La tagliatella cruda deve quindi rispettare la larghezza di 7 mm. Questo riconoscimento rientra in un ampio programma voluto dalle istituzioni per promuovere l'arte culinaria bolognese nel mondo e magari sfatare qualche luogo comune. Mai sentito parlare di spaghetti with meatballs alla bolognese? Fin dal Medioevo si è parlato di Bologna la grassa. Il motivo? Già allora era ben nota la sua tradizione culinaria, l'abbondanza e la varietà del cibo, l'alta qualità della sua cucina. Tradizione culinaria che si sposava alla perfezione con la cultura universitaria, che fin dagli albori dello studium ha influenzato la cucina bolognese. Era abitudine, infatti, per gli studenti stranieri, portare con sé il proprio cuoco personale. Questo ha finito inevitabilmente per portare sempre nuove fonti di ispirazione, arricchendo progressivamente una tradizione già di per sé molto diversificata. Uno dei più noti prodotti di questa cultura è sicuramente la mortadella, al punto che al di fuori del territorio bolognese non è raro che questa specialità venga identificata con lo stesso nome della città di provenienza. Recatevi per esempio al Banco Salumi in un supermercato milanese e non mancherete di sentire qualcuno chiedere un etto di Bologna. Ma qual è il segreto della mortadella? È davvero impossibile da imitare, come sostengono i produttori bolognesi? Quel che è certo è che, a riprova del grande apprezzamento nei confronti di questa specialità, c'è stato un periodo nell'Ottocento in cui è arrivata a costare ben 4 volte tanto il prosciutto. A Bologna la creatività in cucina ha radici antiche. Pare che già ai tempi dei Romani la città fosse celebre per questo insaccato. Furono i coloni bononiensi, oltre 20 secoli fa, a inventare la mortadella, in un periodo in cui la regione era già ben nota per l'allevamento di suini. Il nome venne spontaneo derivarlo dal mortarium, ovvero la macchina usata per macinare insieme carni e spezie. Non si deve dimenticare che a Bologna, fino a un paio di secoli fa, una delle ricorrenze più sentite è stata la festa della porchetta, che veniva celebrata il 24 agosto e che culminava con il lancio sulla folla, dal balcone del Palazzo del Podestà, di un intero maiale arrostito. «In Bologna salsicciotti i migliori che mai si mangiassero», scrive il viaggiatore Ortensio Lando nel 500. Un secolo dopo, la parola passa al fiammingo Andrea Scott, il quale, dopo aver mangiato a Bologna, avrebbe affermato che salsicce o salami non hanno pari in tutto il paese. E parlando di letteratura, come dimenticare poi il trattato pubblicato nel 1644 dal marchese Vincenzo Tanara? L'economia del cittadino in villa fu un autentico bestseller all'epoca, ristampato almeno una decina di volte. All'interno è presente il celebre Testamentum Porcelli, letteralmente il testamento del porco. Satira medievale erroneamente attribuita a San Girolamo, che immagina un maiale, al momento della sua macellazione, indicare a chi spettano i vari tagli. Ma non solo. L'autore ha inserito in un capitolo una lunga dissertazione che illustra ben 110 modi diversi con cui servire la carne di suino. Un vero record. Non mancò il Tanara di parlare di un'altra specialità bolognese, i tortellini, ma cotti nel burro. I tradizionalisti storceranno il naso. I veri tortellini sono serviti in brodo. A proposito della celebre pasta ripiena, sappiamo che la paternità del tortellino è rivendicata sia da Modena che da Bologna e non mancano le leggende sulla sua nascita. Quella più nota racconta di una giovane marchesa in viaggio su una carrozza trainata da 4 cavalli che nel 1200 si fermò per riposarsi alla locanda Corona, a Castelfranco, all'epoca territorio bolognese. Il locandiere, abbagliato dalla sua bellezza, dopo averla accompagnata in camera, non poté fare a meno di spiarla dalla serratura. Folgorato dalla perfezione dell'ombelico della giovane nobildonna, il locandiere ne avrebbe riprodotto le fattezze usando la sfoglia, aggiungendo poi la carne come ripieno. Un'altra versione vuole addirittura che al posto della marchesa ci fosse la dea Venere in persona. Comunque sia andata, esistono una serie di documenti storici che attestano l'esistenza del tortellino fin dal Medioevo. Lo storico Cervellati riferisce che già nel XII secolo a Bologna si mangiavano i tortellorum ad Natale, una tradizione ancora oggi imprescindibile. Tuttavia, i primi riferimenti scritti compaiono a partire dal 1300, con un libro di ricette che recita «Fai i tortelli pizzenini in fogli di pasta zalla». La minestra dei tortelletti è citata nel Diario del Senato della città di Bologna nel 1550 come parte del menù dei festeggiamenti per l'insediamento dei nuovi tribuni. La ricetta è svelata da Antoine Claude Pascan, detto Valéry, che nel 1842 racconta di un ripieno di sego di bue macinato, tuorli d'uovo e parmigiano. Ma è la Confraternita del Tortellino, nel 1974, a ufficializzare la ricetta tradizionale, con un documento depositato presso la Camera di Commercio di Bologna. Il ripieno prevede lombo di maiale marinato per 2 giorni con aglio, rosmarino, sale e pepe, da cuocere in tegame a fuoco lento con una noce di burro, prosciutto crudo, mortadella di Bologna, parmigiano, un uovo, noce moscata, il tutto da tritare finemente con il battilardo. La sfoglia va preparata con farina di grano tenero, 00, e uova di gallina freschissime, lavorata a mano per almeno 15 minuti e dopo averla fatta riposare avvolta in uno strofinaccio per un'ora, va tirata con il mattarello in modo che lo spessore sia uniforme e inferiore a 1 millimetro. I ritagli devono avere una dimensione di circa 4 centimetri e su ognuno di essi va posata una noce di ripieno, per poi ripiegare la pasta a triangolo modellando la forma intorno al mignolo. Il brodo? Naturalmente di capone e manzo, possibilmente con l'osso. Una curiosità. I primi a esportare questa specialità, rendendola famosa nel mondo intero, furono i bolognesi fratelli Bertagni, i quali, dopo aver ideato un metodo per conservare a lungo i tortellini freschi, parteciparono all'Esposizione Universale di Parigi del 1889. Per intenderci, quella in cui venne inaugurata la Torre Eiffel. Alla Fiera di Chicago nel 1894 e a quella di St. Louis nel 1904, ottenendo ogni volta importanti riconoscimenti. Una burla divina.